Sì, semplicemente insieme, insieme a voi, insieme a me, insieme a Jerry. Oggi 30 marzo, ce lo siamo tolti di mezzo marzo, adesso sta andando via finalmente. Oggi giornata fantastica, c'è il sole, quindi sicuramente molti di voi saranno già fuori ad assolecchiarsi, a fare delle belle camminate, lunghe camminate. Bene, bene, beati voi. Però io appena finisco alle 5 finisco, vabbè, alle 17 farò anche una bella passeggiata sicuramente. E allora vi ricordo i numeri di telefono per le vostre richieste, le vostre dediche: il 335-5637-251 e ancora lo 0921-92-32-92. E potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmepiradio.it. Che dite, cominciamo? Sì, cominciamo subito subito, sempre con la bella musica. Buon ascolto! Abbiamo cominciato benissimo con una bella canzone grintosa, ci sta tutta vista questa bellissima giornata di sole, meravigliosa. E allora andiamo avanti sempre con la bella musica. There ain't no reason you and me should be alone tonight, yeah baby, tonight, yeah baby. I got a reason that you who should take me home tonight. To feel the rush, qui in diretta su CRM più Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry. A proposito della pop star, colpo di scena perché Lady Gaga butta via la maschera fatta di trucco pesante, capelli finti, rossetto acceso e posta sul suo profilo Twitter un autoscatto in cui è senza trucco commentando passate una buona giornata. Un gesto che ha lasciato il suo entourage, ma anche migliaia di fan a bocca aperta per lo stupore. Stephanie Joan Angelina Germanotta, questo è il vero nome dell'artista, che tra l'altro ha compiuto 27 anni due giorni fa, il 28 marzo. La cantante, con un fiore tra i capelli, una canottiera verde militare, forse ha deciso di far vedere ai fans il suo aspetto naturale senza trucco, parrucco e abbigliamento sgargiante sui marchi di fabbrica. La star 27enne si presenta così a volto scoperto, mostrando cosa c'è sotto quel pesante make-up, per cui passa ore e ore tra le mani di make-up artist capaci di trasformarla tutte le volte per stupire. Un volto acqua e sapone, proprio come quando ha iniziato la carriera nei piccoli club con capelli neri e tastiera su un palchetto. Una rivoluzione per Lady Gaga, che durerà sicuramente solo il tempo di un post su Twitter per poi acconciarsi di nuovo come si deve in vista del lancio del suo nuovo tour mondiale, di cui sta facendo le prove proprio in questi giorni. Io, guardando le foto, devo dire che sta pure meglio senza quel truccone pesante, quelle parrucche, voglio dire, sta molto, proprio molto, molto meglio. Però giustamente una pop star come lei si deve acconciare in quella maniera e vabbè, beata lei, cioè beata lei. Se lei è contenta va bene così, eh. E noi continuiamo con la grande musica, sempre qui in diretta su CRM, arriva Ligabue. Dicono che tutto sia comunque scritto, tanto vale che non sudi. Nasci da incendiario, muori da pompiere. Dicono, dicono che devi proprio farti fuori se vuoi fare rock in qualche modo, che ti portiamo i fiori lì nei cimiteri. essere una star. Dicono che nasci solo per soffrire, ma se soffri bene vinci il premio di consolazione. Chi non salta l'eccezione. Ma sono quasi tutti quanti usati. Copriti per bene che non ti conviene il mondo qui. Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Con Happy Hour. A proposito di Ligabue, Varche Confini Italiani con Sotto Bombardamento Rock 2012, 5 concerti in Europa e in Italia. Il primo appuntamento infatti è lo show che Ligabue terrà per la prima volta nella sua carriera al Royal Albert Hall di Londra il 25 maggio. Biglietti già sold out dopo soli 2 giorni di prevendita. Saranno live essenziali con più rock, meno spettacolo e scaletta a sorpresa. Sotto Bombardamento Rock 2012 poi proseguirà il 5 luglio con Rock in Locarno al Festival Moon and Stars di Svizzera, il 7 luglio con Rock on del Friuli e poi il 17 sarà a Taormina, il 20 poi alla Piazza del Plebiscito a Napoli e dal 13 aprile sarà in vendita in libreria il nuovo libro di Ligabue, Il rumore dei baci a vuoto. Bene, grande il grande Liga, bene, bene, bene, bene. E noi continuiamo, sì, continuiamo sempre con la bella musica. Naturalmente siete sempre in compagnia di Jerry sino alle 17 circa. Sì, sì. Cause if you wanna, gotta know what you need, well, then I'm your man. And if I listen, I can hear you through my radio. You're not right, white boys. What I've been missing in my life, what I've been dreaming of. You'll be that girl, you'll be that girl, you'll be everything you want, so let me get up there. I'm the baddest baby in the atmosphere. Tell me what you want, so we can do just what you like. Everything you know, I'm flipping upside down. Take you around the world, you know I like it loud. Tell me what you want, cause we can do just what you like. You make me feel the la la la la la. You make me feel so. Para no verte más, para no verte más, yo rompo. ancora in compagnia di Jerry all'interno di Semplicemente Insieme. Beh, lo ricordo perché si fosse messo all'ascolto in questo momento, sino alle 17 vi terrò compagnia sempre con tanta bella musica, e quindi auguro ancora a tutti voi un buon pomeriggio e noi continuiamo sempre con la bella musica. La cosa più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa ed è un miracolo che ogni giorno si rinnova. Ti prego perdonami, ti prego perdonami, ti prego perdonami se non ho più la fede. Ti faccio presente che è stato difficile abituarsi ad una vita sola e senza di te. Spesso sai, pieno di pensieri, non sono più sereno come ero ieri. La vita semplice che mi garantivi, adesso è mia però, è la stricata di la propria. Più semplice sarebbe quella di non essere mai nato. In fondo la vita è solo una scusa, è lei da sola che ogni giorno si rinnova. Ti prego perdonami, ti prego perdonami, ti prego perdonami se non ho più la fede in te. Ti faccio presente che ho quasi finito anche la pazienza che ho con me. Sarà difficile non fare degli errori senza l'aiuto di potenze superiori. Un fatto sai, con le mie emozioni, le lascio vivere e loro non mi fanno fuori. Non fare degli errori senza l'aiuto di potenze superiori. Ho fatto un fatto, sai, con le mie emozioni, le lascio vivere e loro non mi fanno fuori. Vasco Rossi, manifesto futurista della nuova umanità, e su questa canzone saluto Fabio che ce l'ha richiesta sempre qui allo 0921 92 32 92. Vi ricordo per i vostri sms il 335 56 37 251 e ancora potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmpradio.it. A proposito del grande Vasco Rossi, è stato un debutto sfortunato alla Scala. Il prestigioso teatro milanese ha infatti rinviato la prima di L'altra metà del cielo, il balletto che si ispira alle figure femminili del rocker, al 3 aprile, a causa di uno sciopero indetto dalla CGIL sul tema della sicurezza e articolo 18. Il Blasco, che sarà presente alla premiere, l'ha presa però con filosofia. Dice: ci sarò ma devo stare in piedi perché non ho i biglietti. Vasco, protagonista alla consegna di 10 borse di studio per l'Accademia della Scala da parte dell'associazione Vasco Rossi Dancing Project, ha espresso solidarietà ai lavoratori, non senza lanciare loro una frecciatina ironica. Avranno le loro ragioni, ma hanno rovinato la festa a mia madre che voleva vedermi smoking. Il rocker non ha nascosto che la passione per la musica classica è nata solo di recente. tanto che lui non aveva mai assistito ad un balletto prima d'ora. È un'espressione, dice, che si avvicina al rock perché trasmette provocazione e sensualità, richiede un impegno enorme che non si fa per lavoro. È come la chitarra, ci vuole passione. Grazie a questo nuovo interesse, Vasco Rossi entrerà alla Scala per il balletto L'altra metà del cielo, costruito usando le sue canzoni. È una cosa talmente straordinaria e penso, ha commentato, che sia perché il direttore del balletto Vazhev è russo e il sovrintendente è francese. Un italiano non lo avrebbe fatto perché c'è ancora troppo pregiudizio. Beh, grande, grande Vasco, allora aspetteremo questo debutto al 3 aprile, quindi è stato tutto rimandato al 3 aprile per questo balletto L'altra metà del cielo, dove appunto sono inserite le sue canzoni. E noi continuiamo ancora con la bella musica, i Young the Giant Cold Syrup. Life's too short to even care at all. I'm losing my mind, losing my canzone. Saluto Barbara che ce l'ha richiesta, un bacione grande grande grande. E noi Che facciamo? Ci muoviamo un po'? Balliamo un po' con Zucchero? Sì, per colpa di chi? Sempre qui in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry. Funky Gallo, come sono bello stamattina. Non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma. Oh, intanto zio Rufus sta con i suoi pensieri in testa, portando in giro la vita. Keep it happening.

Emma, Non è l'inferno, vincitrice del Festival di Sanremo di quest'anno. E poi vi ricordo che è anche stata la vincitrice del talent show di Amici di Maria De Filippi. Questo talent show italiano venduto tra l'altro come format negli Stati Uniti. Infatti a gennaio del 2012 è stato sottoscritto un contratto di licenza per la cessione del format alla società Shed Media di Los Angeles, che lo produrrà sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna. Il talent show di Amici nasce, vi ricordo, nel 2001 su Italia 1. All'inizio era condotto da Daniele Bossari. Poi il programma inizialmente si chiamava Saranno Famosi, poi ha dovuto cambiare nome nella seconda stagione per questioni di diritti d'autore legate al celebre telefilm. Nella seconda stagione il pomeridiano e la puntata del sabato andavano in onda su Canale 5, mentre la finale era stata trasmessa poi da Italia 1. Poi dalla terza stagione Amici va in onda costantemente su Canale 5. 11 anni di grandi successi che hanno visto trionfare personalità come Alessandra Moroso e Emma Marrone, che abbiamo appena ascoltato. Entrambe faranno parte del cast del serale che parte il 31 marzo, cioè domani sera, in prima serata su Canale 5, in un circuito denominato Big, un Sanremino come l'ha definito Maria De Filippi, che vedrà le due cantanti gareggiare con Pier Davide Carone, Marco Carta, Karima, Valerio Scanu, Annalisa Scarone, Virgilio Simonelli e Antonino Spadaccino. Intanto la conduttrice e autrice festeggia la notizia dell'acquisto del format all'estero, uno dei pochi casi in cui un programma di successo italiano trova gradimento anche in altri paesi. Bene, bene, bene, siamo molto molto contenti. Bene, grande Maria De Filippi per questi suoi programmi. Devo dire, Amici, poi a me piace parecchio, lo seguo, devo dire, tanto. E noi andiamo avanti ancora, sono le 16.05, ancora un'oretta da trascorrere insieme a me, sempre con la bella musica, e allora andiamo ad ascoltarla. In my

Noemi, sono solo parole. Su questa canzone naturalmente saluto Chiara, che in questo momento ci sta ascoltando. Ha fatto la sua richiesta tramite il nostro sito www.crmpradio.it. Al solito io stavo sbirciando, no? Cercando qualche notizia. Ebbene, ne ho trovata una e adesso ve la dico, no? Praticamente un ubriaco cambia centrale di polizia per un albergo e chiede una stanza. Questa devo dire che è proprio bella. Questo è quello che succede, che è successo a un 25enne americano che, dopo aver bevuto un po' troppo, si è messo alla guida della sua macchina. Quindi cosa da non fare assolutissimamente quando avete bevuto troppo: prima è meglio smaltire la sbronza, dopodiché si rimette in macchina. Praticamente succede che questo ragazzo, dopo aver quindi bevuto troppo, si è messo alla macchina, si è reso conto che non era il caso di fare troppa strada e ha deciso quindi di fermarsi di fronte ad un albergo e chiedere una stanza per passare la nottata. Un'idea quindi certamente ottima e condivisibile. E solo che questo ragazzo non si era accorto che dove si era fermato non era un albergo, ma bensì una centrale di polizia. L'agente in servizio in guardiola praticamente è rimasto decisamente stupito quando ha visto il ragazzo entrare in caserma con passo incerto e ha chiesto una stanza. Solo dopo alcune domande dell'agente, che gli ha chiesto se avesse bevuto troppo e da quanto stesse guidando, il ragazzo è venuto qualche dubbio e ha chiesto se per caso ci fosse, se avesse sbagliato e quindi quello non fosse un hotel. Beh, in effetti un albergo non era, però una stanza per la notte gliel'hanno data lo stesso, anche se con le sbarre, avete capito? Quindi mi raccomando, soprattutto quando avete bevuto un po' troppo, non mettetevi in macchina, mi raccomando. E noi continuiamo ancora per una mezz'oretta circa, sempre con la musica di CRM. Siete ancora in compagnia di Jerry all'interno di Semplicemente Insieme e noi andiamo avanti quindi con la bella musica.

lo máximo. Azota baldosa. Baila para tu papi. Jennifer Lopez, Papi, questa è la richiesta da parte di Gloria, che la dedica a tutte alle sue amiche del cuore, Francesca, Maria e Paola, che naturalmente saluto anch'io. Un bacio grande grande. A proposito di Jennifer Lopez, sembrano ormai lontano i momenti in cui era una sposa felice al fianco di Marc Anthony. Beh, la bella Jennifer Lopez, dopo il divorzio, va dritta per la sua strada e tra TV, American Idol e musica cerca di spiazzare sempre. È la volta del singolo in duetto con Pitbull, Dance Again. Sulla copertina infatti appare sensualissima, circondata da uomini nudi con la mascherina che la sfiorano. Il brano inedito fa parte di un best of che dovrebbe uscire in estate, Dance Again, infatti sarà lanciato nei negozi a partire dal 30 marzo, quindi da oggi, mentre l'anteprima del video sarà trasmessa il 5 aprile durante appunto American Idol. L'ultimo album della cantante 42enne, tra l'altro portati benissimo, risale allo scorso anno con Love, che ha scalato le classifiche americane ed inglesi sulla scia del successo del singolo Papi, che abbiamo appena ascoltato, e I'm Into You. Bene, bene, sempre, sempre bene la grande e bravissima Jennifer Lopez. E noi continuiamo ancora, ancora un quarto d'ora da trascorrere insieme a me e voi, io insieme a voi e voi insieme a me, sempre con la musica qui in diretta naturalmente su CRM. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Tonight, I want all of you tonight. Give cercando al solito, no, delle notiziole, no, ne ho trovata una, devo dire, che mi piace parecchio e penso piacerà anche a un bel po' di voi, sì, perché stiamo parlando della cioccolata, sì, la cioccolata che io tra l'altro adoro tantissimo, perché a quanto pare, sentite un po', secondo uno studio, una ricerca americana, chi mangia regolarmente cioccolato tende a pesare meno di chi se lo concede una volta ogni tanto. Però questo non significa che il cibo degli dei, così soprannominato, faccia dimagrire, specie se non è fondente, quindi ma al latte o al cioccolato, ma solo che aiuti a tenersi in forma molto più facilmente se lo mangiamo due volte la settimana. Secondo questa ricerca, gli antiossidanti contenuti appunto nella cioccolata possono garantire benefici per la salute, tra cui l'abbassamento di pressione e di colesterolo, quindi anche la diminuzione del peso. Più che la quantità, ciò che conta è la regolarità con cui si mangia la cioccolata. Lo studio non ha mostrato infatti alcun legame con i grammi di cacao assunti, quindi non è la quantità di calorie, ma la loro composizione che ha un impatto finale sul peso. Beh, questa è una bella notizia per noi, chiamiamo questo cibo, il cibo degli dèi, che io adoro, proprio adoro. E quindi bella questa notizia, e noi continuiamo ancora con la bella musica di Cirema. Sei un'emozione inaspettata, un sogno indescrivibile, la sensazione più delicata, profonda e così semplice. Ringrazio il cielo per la gioia pura che ora tu regali a me. Come pioggia fertile scendi a gocce piccole di sé, di una vita che si era inaridita. Restando immobili presto scivoliamo in infinite distese, sorvoliamo ad occhi chiusi, tuffandoci come angeli e come innamorati, felici di perdersi in fondo all'anima. E questa canzone, così come tante, sarebbe trascurabile, ma ogni parola cercata nel cuore è un segno indelebile. Ringrazio il cielo e la fortuna di quel giorno che incontrasti me, come terra fertile, pioggia, gocce tiepide, sostieni una vita già rifiorita. Rimanendo immobile corri per le orbite infinite, mi porti nel tuo sole, colpiscimi, sorprendimi, accendimi, linfa dei miei sistemi, abbracciami e stringimi che no. Se per la prima volta io ti incontrassi adesso, son sicuro che in un lampo ti amerei lo stesso. Come pioggia fertile scendi a gocce piccole di sete, una vita che sembra rinata. Restando immobili presto scivoliamo via infinite distese, sorvoliamo, colpiscimi, sorprendimi, perché tu sei linfa nei miei sistemi, abbracciami e stringimi che no. Che notte non verrà mai. Gotta space, nothing fades away. today, what I wanna do today. I wanna say I believe in every single day of our life. Because we don't know what we're gonna be. We just see what we wanna see. Feel your blood running through your veins. You will have to go through this pain. You arrivati proprio alla fine, sì, sono già le 17, quindi non mi resta che salutarvi augurandovi un buon proseguimento con i programmi di CRM Happy Radio. Naturalmente noi ci rivediamo, ci risentiamo lunedì sempre a partire dalle 15 sino alle 17, e allora buon weekend e fate i bravi. Ciao ciao, baci baci. Semplicemente.